giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Giulia Cecchettin voleva lasciare Filippo Turetta e aveva paura, ma non per se stessa, bensì per lui che minacciava di suicidarsi. Lo ha raccontato la stessa Giulia, la 21enne veneta, il cui corpo è stato abbandonato vicino a Barcis, in alcuni messaggi audio inviati alle amiche. Il commento dei genitori di Nadia Orlando, la 21enne di Vidulis di Dignano, uccisa dall'ex fidanzato 6 anni fa. Il padre di Nadia racconta al nostro microfono la disperazione nel rivivere quei giorni dolorosi e la rabbia nel vedere che nulla è cambiato. La banda degli orologi di lusso arrestati dalla squadra mobile di Trieste e altri 3 uomini responsabili delle rapine dopo i 5 arresti dello scorso maggio, perquisite anche le case di altri 2 coinvolti come ricettatori. Il calo demografico da un lato, il richiamo di manodopera straniera dall'altra, sono i 2 fenomeni che incrociandosi creano una situazione come quella di Monfalcone, in cui negli istituti scolastici prevalgono studenti non italiani, ma la maggior parte di loro è nata in Italia. Accorpamenti scolastici, il comune di Trieste ha già deciso di smembrare l'istituto comprensivo Bergamas nel rione di San Giacomo. Intanto il consiglio d'istituto e centinaia di famiglie chiedono all'istituzione di ripensarci. Abbiamo chiesto all'assessore De Blasio quali garanzie può dare. Non lasciamo soli gli anziani a Natale. Il comune di Trieste, insieme ad una dozzina di enti e associazioni di volontariato, organizzano più di 50 occasioni di incontro gratuite, almeno una per ogni area della città. Buongiorno da Francesca Terranova e Francesca Vigori. Sono queste ore decisive per l'omicidio di Vigo Novo. Mentre all'Interpol si sta lavorando per organizzare il rimpatrio di Filippo Turetta in Italia e la difesa del presunto killer di Giulia Cecchettin annuncia battaglia in tribunale con una perizia psichiatrica, per la Procura di Venezia si profila l'aggravante della crudeltà che potrebbe costargli l'ergastolo. Intanto, tra conferme e smentite, sembra ormai certo che rientro nel nostro paese di Turetta. Fermato in Germania dalla polizia tedesca dopo una fuga in macchina durata 8 giorni, avverrà domani con un volo militare. Ancora non è stato reso noto l'aeroporto dove atterrerà l'aereo e se si tratterà di un aeroporto civile o militare di Roma o del nord Italia. Ieri sera intanto la trasmissione Rai Chi l'ha visto ha mandato in onda alcuni audio di Giulia Cecchettin, messaggi inviati alle amiche in cui diceva di volersi allontanare da Filippo ma che la frenava il senso di colpa. Sentiamo la sua voce. Mi sento in una situazione in cui appunto vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui, però allo stesso tempo lui mi viene a dire cose del tipo che è super depresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire, che vorrebbe uccidersi. Giulia Cecchettin non sopportava più Filippo Turetta. In un audio diffuso dalla trasmissione Chi l'ha visto si sfogava con le amiche. A frenarla è la sua sensibilità, si sente in colpa, condizionata dai ricatti emotivi di lui. Vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo perché mi sento in colpa, perché ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo. Era preoccupata per Filippo, non per se stessa, eppure i segnali di pericolo erano evidenti, sottovalutati anche dai carabinieri all'atto di denuncia della scomparsa. Il padre di Giulia spiega di temere per l'incolumità della figlia, ma i militari lo classificano in un primo momento come allontanamento volontario senza alcun pericolo di vita, nonostante la segnalazione di una lite violenta la sera prima, a pochi passi da casa di Giulia. Quando Gino Cecchettin presenta denuncia, è comunque ormai troppo tardi. Alle 13.30 di domenica Filippo era già oltre confine, il corpo senza vita di Giulia abbandonato vicino al lago di Barcis. Il servizio è di Giuseppe Bucca. La famiglia Orlando in questi giorni rivive lo stesso dolore e la stessa rabbia di 6 anni fa, quando Francesco Mazzega strappò Nadia Orlando alla vita a Vidulis di Dignano. Giulia Cecchettin e Nadia, quasi coetanee, entrambe uccise dagli uomini a cui avevano detto no. Nel servizio l'intervista al padre di Nadia, Andrea. Il ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin, di 22 anni, in un dirupo, ha riaperto ferite mai rimarginate, facendo rivivere nella famiglia Orlando la stessa angoscia, lo stesso dolore di quel 31 luglio 2017. Andrea Orlando, il papà di Nadia, ha provato la stessa rabbia e la stessa disperazione di allora, quando Francesco Mazzega strappò a lui, al fratello Paolo e alla moglie Antonella, la figlia. Giulia e Nadia, quasi coetanee, sono state entrambe uccise dagli uomini a cui avevano detto no. Andrea Orlando. Ci ha riportato indietro di 6 anni e mezzo alla notte in cui mia moglie al lavoro pregava perché Nadia tornasse e io la stavo cercando senza sosta in Tagliamento e lungo le strade del circondario. Purtroppo la sorte è stata la medesima e ancora più amplificata dal fatto della durata, di quanto è durato il ritrovamento della povera Giulia. Per noi è stata una notte di agonia, però poi ormai sono 6 anni e mezzo che siamo in balia di un dolore che difficilmente ci abbandonerà, ed è un dolore quotidiano, perché non è parlare di Nadia o parlare di Giulia, è la mancanza di una figlia che noi avevamo messo al mondo perché fosse il bastone della nostra vecchiaia. Voi girate molto le scuole, fate incontri con i giovani. Cosa vi chiedono in privato? L'esempio è di ragazzi maschi di una scuola quasi esclusivamente di maschi che ci hanno voluto a raccontare la nostra vicenda e la vicenda di Nadia. Bravi ragazzi ce ne sono, è solo il fatto di coltivarli, per cui c'è solo da sperare che quel piccolo seme che cerchiamo di trasmettere germogli, e germogli nel migliore dei modi, e germogli in maniera rigogliosa. Dignano, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Intercettare possibili casi di maltrattamenti offrendo alle vittime la possibilità di parlare con degli esperti in luoghi diversi dagli uffici di polizia, come davanti al supermercato o davanti al palazzetto prima della partita di basket. È l'iniziativa dell'ospedale materno-infantile Burlo Garofalo di Trieste. Mai come in questi giorni vengono chieste risposte contro la violenza sulle donne. L'ospedale infantile Burlo Garofalo questa settimana all'interno dell'Open Week ha allestito 2 info point per fornire chiarimenti e indicazioni sulle possibilità di aiuto, assistenza e difesa per le donne vittime di violenze. Laura Novello, assistente sociale Burlo Garofalo. È fondamentale riuscire a riconoscere i sintomi di una possibile violenza e noi all'interno del Burlo abbiamo proprio un team dedicato che si occupa di accogliere queste donne che molto spesso non arrivano ovviamente a noi con una violenza accertata, ma presentano segni e sintomi sfumati. Dobbiamo essere preparati ad accogliere queste donne e anche possibilmente a riuscire a prevenire le situazioni di violenza per evitare ulteriori recidive. Violenze di cui sono vittima o assistono anche i figli, con ripercussioni a lungo termine. I bambini che comunque sono inseriti in un contesto violento apprendono un modello violento, e quindi si è visto anche nelle ricerche, nella letteratura, che i bambini che assistono a situazioni di violenza è molto probabile che poi diventino da adulti dei genitori o dei partner maltrattanti, e le bambine che assistono a violenza diventino a loro volta delle donne che possono avere delle relazioni violente, quindi dei partner maltrattanti. L'info point sarà attivo di fronte al supermercato del centro commerciale Torre d'Europa fino a sabato nell'orario d'apertura e poi domenica dalle 16 alle 19 al Pala Trieste in occasione della partita della squadra locale di basket contro Forlì. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Diamo ora uno sguardo al tempo. Il cielo è sereno su pianura e costa e poco nuvoloso sui monti. Le temperature a Trieste 12 gradi, a Udine Corizia 11, a Pordenone 10 gradi, a Piancavallo 10, a Forni di Sopra 9, a Tolmezzo 8 gradi, a Sappada e a Tarvisio 2 gradi, sul Monte Zoncolan 7 gradi, sul Monte Lussari 4, a Grado 11, a Legnano 10. Le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Oggi il cielo in prevalenza sereno su tutta la regione. Bora in attenuazione nel corso della giornata, che è una giornata fresca nei bassi strati, ma mite ad alta quota, con zero termico che arriverà a 3.500 metri. Domani cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Al mattino è possibile qualche banco di nebbia sulla fascia lagunare. La ministra del Lavoro Marina Calderone sarà al Teatro Verdi di Pordenone questo pomeriggio alle 17, ospite della premiazione dell'economia e dello sviluppo organizzata dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine, con cui ogni anno si conferiscono riconoscimenti a lavoratori e imprenditori. Il presidente Giovanni Da Pozzo conferirà 3 targhe dell'eccellenza e 73 premi. La cerimonia sarà l'occasione per fare il punto sullo stato dell'economia del Friuli Venezia Giulia e sugli obiettivi futuri. Interverranno anche il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani e il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Una rappresentanza dei lavoratori dello stabilimento Varzila di Trieste è stata ricevuta dal commissario di governo del Friuli Venezia Giulia, il prefetto di Trieste, e dall'assessore regionale al lavoro in vista dell'incontro al MISE convocato a fine mese. La preoccupazione dei lavoratori è l'avvicinarsi della fine dell'anno, quando scadranno blocco dei licenziamenti e ammortizzatori sociali. Un Natale difficile, con l'angoscia a bussare alla porta dei 300 lavoratori rimasti della produzione dello stabilimento Varzila di Bagnoli della Rosandra. Tra una settimana, il 30 novembre, è in calendario il tavolo ministeriale dove i sindacati si aspettano di parlare di reindustrializzazione dell'area e dei nuovi soggetti subentranti. I nomi rimangono quelli di Ansaldo Energia e Mitsubishi, ma si avvicina inesorabile anche la scadenza a fine anno dell'accordo per la gestione dell'ammortizzatore sociale ed il blocco dei licenziamenti concordato in estate con la multinazionale finlandese. E l'assenza di informazioni rispetto al futuro dei lavoratori preoccupa. Così CGL, CISL e UIL hanno incontrato il commissario di governo Signoriello e l'assessore regionale al lavoro Rosolen. Antonio Rodà, UILM. Quello che è emerso durante la discussione è che, insomma, rispetto alle nostre preoccupazioni, qualche elemento, ecco, sul tavolo emergerà. Ci è stato fatto capire in maniera abbastanza chiara, ecco, che non siamo al punto di arrivo e che quindi, insomma, sarà necessario andare sicuramente con tempistiche più lunghe. Fabio Canidiscek, FIM CISL. Si parlerà anche, e io direi soprattutto, del futuro industriale dell'area, delle persone e anche delle 600 persone che rimangono attualmente in Varzila e per le quali il futuro non è stato ancora delineato. Tra i lavoratori serpeggia la paura che la multinazionale finlandese il 1 gennaio apra una procedura di licenziamento collettivo, un costo per l'azienda comunque sostenibile, senza dimenticare la situazione dell'indotto, con qualche azienda che ha già prospettato la chiusura entro l'anno. Marco Relli, FIOM CGL. Senza prospettive certe dovranno fare delle scelte che, se va bene, sono quelle magari di delocalizzazione, ma potrebbero fare, come è già successo, anche delle scelte di licenziamento e quindi di riduzione del personale. Alla voce dei lavoratori di Varzila si unisce anche quella del vescovo di Trieste, Monsignor Trevisi, affinché le istituzioni si adoperino per una soluzione che tuteli l'occupazione e la filiera metalmeccanica giuliana. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E prosegue il nostro viaggio nel porto di Trieste. Ieri avevamo proposto un focus sulla piattaforma logistica, oggi invece esaminiamo il ruolo della ferrovia e della futura stazione di Servola e l'impatto che questo avrà sulla città. Nel servizio la voce del presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, Zeno D'Agostino. È impressionante vedere quello che non c'è più è tutto quello che si sta facendo, tra l'altro in perfetta continuità con i nuovi finanziamenti che si sommano appunto a quelli che erano già previsti per quello che era l'attività di demolizione della ferriera. Sono 180 milioni che arrivano su Servola per la nuova stazione ferroviaria, che si troverà chiaramente proprio in queste aree che sono state liberate dalla ferriera. 10 binari da 750 metri e un collegamento con la grande viabilità triestina, un progetto PNRR che dovrebbe essere completato entro il 2026. Paolo Crescenzi, della direzione ferroviaria dell'autorità portuale. La stazione di Servola si andrà di fatto ad affiancare alla stazione esistente di Campo Marzio e, sempre nel programma di investimenti che stiamo portando avanti con RFI, questo raggiungerà l'obiettivo del raddoppio praticamente della capacità ferroviaria. A giugno è stato inaugurato il raccordo ferroviario Aquilinia Area Industriale di Bagnoli della Rosandra, costato 3,6 milioni di euro, che darà nuove prospettive agli insediamenti nell'area Trieste, dove ha sede anche la BAT. Partendo dalla stazione di Aquilinia, rinnovata da RFI nei mesi scorsi, l'autorità portuale ha provveduto alla riattivazione di questo raccordo che va appunto ad allacciare un importante stabilimento potrà essere anche il punto da cui poter caricare e scaricare treni per tutti gli utenti della zona industriale. Quella di Trieste è l'unica autorità di sistema portuale italiana ad essere dotata di una direzione ferroviaria interna che governa e gestisce direttamente tutta l'infrastruttura ferroviaria di Trieste, Monfalcone e Cervignano in collaborazione con RFI, Rete Ferroviaria Italiana, con cui c'è dialogo costante. Una scelta di visione strategica, ha spiegato il presidente D'Agostino, nella quale rientrano anche altri progetti. Stiamo facendo di tutto perché questo porto cresca, ma in maniera sostenibile. Trieste, Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Arrestati altri 3 giovani membri della cosiddetta banda dei Rolex. La squadra mobile di Trieste ha proseguito le indagini che avevano portato agli arresti di 5 persone 6 mesi fa, il 16 maggio. Le 3 misure cautelari sono state eseguite nella prima mattina del 21 novembre in collaborazione con le squadre mobili di Pistoia, Monza e Brianza. Sono accusati di aver partecipato a più rapine, in particolare quelle commesse il 23 dicembre 2021 e il 4 e 5 febbraio 2022. Sequestrati cellulari e altro materiale ritenuto utile alle indagini. Nella stessa operazione, su delega della Procura della Repubblica di Trieste, gli agenti hanno perquisito le abitazioni di 2 persone a Trieste e a Monza, ritenute responsabili di ricettazione degli orologi di lusso frutto delle rapine. Autostrade Alto Adriatico segnala un incidente non grave avvenuto allo svincolo in uscita alla Tisana, direzione Venezia, verso le 9:30 di oggi. Un'auto che percorreva la A4 dopo aver imboccato l'uscita verso il Casello ha centrato la barriera laterale e si è cappottata. Per consentire l'arrivo dei soccorsi e rimuovere il veicolo che occupa la corsia è stato chiuso lo svincolo per chi proviene da Udine e Trieste. Sul posto la polizia stradale, il 118 e gli ausiliari alla viabilità della concessionaria. Lunedì sera in tantissimi hanno presidiato Piazza Unità d'Italia a Trieste in segno di protesta contro la decisione del Comune di smantellare proprio l'istituto comprensivo Bergamas fra i tanti possibili da accorpare per ottemperare il decreto ministeriale che impone di ridurre il numero di dirigenti scolastici e del personale di segreteria. Assodato che per gli studenti non cambia nulla, resta l'amarezza del Consiglio d'Istituto della Bergamas, che tra l'altro al momento non ha un dirigente ma un reggente facente funzioni perché il preside è andato in pensione. Abbiamo chiesto all'assessore comunale Maurizio De Blasio come mai la proposta alternativa suggerita dal Consiglio d'Istituto, cioè quella di accorpare i presidi Rozzola e Melara, non è stata accolta. Quella soluzione era stata valutata dagli uffici nelle settimane precedenti, ma poi è stata accantonata per una questione di numeri, perché l'indicazione principale che ne abbiamo ricevuto era di fare attenzione ai numeri degli iscritti. Certo, per evitare anche classi pollaio o plessi esageratamente grandi. Certamente che è quello che il decreto ministeriale appunto vuole evitare. Ci sono comuni che non hanno fatto ancora nulla in merito a questo decreto ministeriale, no? Invece Trieste in questo caso è stata molto veloce. Da cosa dipende questa disparità? Questo occorrerebbe chiederlo ai comuni che hanno deciso di non deliberare. Noi avevamo una data limite che abbiamo cercato di rispettare, stabilita dalla regione. L'assenza di delibera da parte dell'ente locale, in questo caso del comune, consente poi alla regione di deliberare quello che ritiene più opportuno. Il Consiglio d'Istituto Bergamas vorrebbe avere, se proprio bisogna andare in questa direzione, vorrebbe avere la garanzia di avere un presidio di segreteria a San Giacomo, perché quell'area della città sarebbe sguarnita di una segreteria e quindi ci sarebbero centinaia di famiglie, di docenti che dovrebbero andare dall'altra parte della città a Rozzol a chiedere informazioni, insomma per tutte quelle operazioni di segreteria, no? Voi potete garantire in qualche modo che ci sarà un presidio anche a San Giacomo? L'organizzazione interna dei singoli istituti non è di competenza comunale, così come il personale e i piani formativi. Ciò che noi sicuramente faremo è di sensibilizzare le dirigenze sulle esigenze della cittadinanza. Gli stranieri a scuola, ci sono realtà in cui superano il numero dei madrelingua italiani. Accade a Monfalcone, dove i bimbi sono soprattutto di origine bengalese, anche se moltissimi sono nati qui. Nella città dei cantieri gli istituti comprensivi mettono in campo da anni la loro esperienza e progetti di integrazione. Il calo demografico da un lato, il richiamo di manodopera straniera dall'altra, sono i due fenomeni che, incrociandosi, creano una situazione come quella di Monfalcone, in cui negli istituti scolastici prevalgono ragazzi non italiani. Al comprensivo randaccio si sfiora il 60%, quasi 70% alle materne, il 50% alle elementari, il 53% alle medie. Ma la gran parte di questi bambini è nata in Italia, solo il 14% in Bangladesh, la principale nazione di provenienza, col 70% dei minori stranieri. Diventano centrali allora i corsi di alfabetizzazione, il rafforzamento dell'insegnamento della lingua e i docenti seguono percorsi speciali di formazione. Silvia Raicovi, insegnante di italiano per stranieri al comprensivo randaccio. Allora, io ho conseguito la laurea magistrale in scienze della formazione per l'abilitazione al titolo e poi presso l'Università di Udine il master in italiano L2 e interculturalità. Per la necessità di avere degli strumenti e delle competenze specifiche per questa situazione che non è più una situazione di emergenza ma è una realtà concreta, una quotidianità di tutte le scuole italiane, possiamo dire. Sullo sfondo l'obiettivo più profondo del dialogo e della conoscenza. Isabel Polo, insegnante di italiano per stranieri. Fin da inizio anno abbiamo utilizzato le ore a disposizione degli insegnanti per rispondere a questo bisogno immediato di comunicare i propri bisogni essenziali di questi alunni e integrarsi con la classe. E sono stati anche avviati dei progetti sia per la secondaria che per la primaria in cui appunto vengono promosse delle attività di italiano L2 per questi alunni in modo da rispondere ai loro bisogni, quindi si fa il possibile per includerli maggiormente fin da subito. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Più di 50 momenti d'incontro a Trieste per fare compagnia agli anziani soli nel periodo delle feste di Natale. Pranzi in pizzerie e trattorie del territorio, brindisi, scambi di auguri, spettacoli teatrali, mercatini, gite, concerti e canti natalizi e giochi della tombola. Organizza il comune insieme ad Asugi e alle aziende pubbliche di servizi come Prosecnet Tute e Itis, ma anche Acli, Habitat Microare, Comunità di Sant'Egidio e altre associazioni del terzo settore. Circa 415 anziani in carico ai servizi domiciliari comunali che non potranno però partecipare agli eventi a causa di impedimenti fisici o malattia riceveranno comunque un regalo a domicilio consegnato dai volontari di Croce Rossa. Il calendario delle iniziative sarà pubblicato sul sito web e sui canali social del comune. Ancora qualche appuntamento culturale, doppio concerto oggi a Gorizia, Palazzo Lantieri, recital del pianista sloveno Urban Stanic su pagine di Mozart e Debussy, Slakan e Stravinsky alle 18.30 e sempre a Palazzo Lantieri alle 20.30 il trio Chagall proporrà pagine da Schubert, Shostakovich e Beethoven. Un viaggio immaginario nella sontuosità di una festa barocca del Settecento, ispirato dalle creazioni dei grandi compositori di quel secolo, da Vivaldi a Veracini a Geminiani, è quanto propone l'Orchestra Barocca di Venezia, diretta da Andrea Marcon, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Il concerto comincia alle 20.30. La Contrada riporta in scena da oggi a domenica al Teatro Bobbio di Trieste la coppia Corrado Tedeschi e Deborah Caprioglio, protagonisti della nuova produzione Plaza Suite di Neil Simon, sipario alle 20.30. Debutto in prima assoluta per Black Star, richiamandosi al tifo andronico di Shakespeare, Fabrizio Sinisi e Fabrizio Arcuri portano in scena una tragedia sulla violenza sociale legata alla presenza dello straniero. L'appuntamento al Teatro Palamostre di Udine, sipario alle 20.30. Fiore libero è il concerto per la regia di Andrea Pajor con vari gruppi vocali femminili e giovanili del territorio. L'evento a Gorizia al Kulturnidom alle 20. Una serata dedicata all'amore per chiederci come è cambiato tra i giovani. Docufilm Altri comizi d'amore, realizzato dal monfalconese Massimiliano Finazzer Flori per Rai Cinema, sarà proiettato questa sera alle 18.30 a Trieste nella Sala Luttazzi in Porto Vecchio alla presenza del regista. Senza educazione affettiva non ci può essere antidoto alla violenza e alla prevaricazione, dichiara il regista e attore Massimiliano Finazzer Flori. Serve una cultura dei sentimenti. Noi ci abbiamo provato chiedendoci cosa vuol dire amore oggi. Invito i giovani, dice, a venire a dirci che cosa pensano per raccogliere le loro testimonianze e farci crescere e migliorare. Finanzer Flori si è ispirato ai comizi d'amore di Pierpaolo Pasolini e ha raccolto 53 storie di gente comune e di personaggi famosi che hanno conosciuto personalmente Pasolini. Un docufilm non su Pasolini, dice, ma sul metodo Pasolini, precisa. 53 dichiarazioni sull'amore, quanti gli anni della vita di Pierpaolo, ognuna diversa, in omaggio proprio alla diversità. Anche dal mondo dello spettacolo, dunque, la lotta alla violenza di genere. Un'iniziativa messa in campo dalla compagnia Arti e Mestieri è quella di regalare al pubblico maschile l'ingresso gratuito agli ultimi due spettacoli in cartellone della Scena delle Donne, oggi e giovedì prossimo. Partecipate, ascoltate, esponete la vostra opinione, così la direttrice artistica Bruna Braidotti esorta il pubblico maschile. Aiutateci a condannare, a diffondere il messaggio che il possesso è sbagliato, umiliare è sbagliato, la violenza fisica, psicologica, economica è sbagliata. Si comincia stasera dunque al Capitol di Pordenone con Caipirinha, Caipirinha di Sabra Sole e Notar Bartolo e giovedì prossimo con la pièce Da Uomo a Uomo. Altri appuntamenti relativi alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. A Cividale, a Palazzo De Nordis, incontro con l'Associazione Donne Operate al Seno e la responsabile della chirurgia senologica di Udine, la dottoressa Carla Cedolini, dalle 17.30. La prima guerra mondiale raccontata da grandi giornaliste e corrispondenti dal fronte, donne moderne, con autobiografie avventurose, ne parla la ricercatrice Elisa De Zan al Polo Culturale di Casa Maccaria, a Gradisca di Sonzo, alle 18. Il nostro giornale radio si chiude qui da Francesca Terranova e Francesca Vigori, che l'hanno redatto e condotto, Federico Comare e Paolo Cassano, che hanno curato la parte tecnica, Laura Sarasini, che ha collaborato in redazione. Grazie per la cortese attenzione. Buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.